Foxy e i piccoli colpi di genio. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Bella questa commedia, Dante. Divina. Ma non sarà un tantino lunga? E nemmeno un rotolo. Foxy Mega, il rotolone decorato più che lungo, smisurato. C'è qualcuno? Pronto, pronto. C'è qualcuno? C'è qualcuno in ascolto? Sì. Noi ci siamo. Un po' in ritardo per questioni di chiavi e di feeling con le chiavi, ma ci siamo. Non muovere il microfono. Non muoverò il microfono. Ora lo devi muovere, perché non si sente più. Non si sente più nulla, maledetti. Forse? Forse sì. Forse sì? Bene. Ok. Io non è che mi sento. Non mi muova il microfono. Signorina, non mi muova il microfono. Che ne dice ora? Le dico che oggi è il 5 aprile ed è la nostra nuova puntata in ritardo dell'Accademia della Brusca. Sì, perché giovedì scorso abbiamo avuto un serio problema con la vita in generale. Niente di grave. Però non siamo potute essere qui, splendide e splendenti, in diretta. E allora vi abbiamo pensato tantissimo, abbiamo pensato a tutta la radio, abbiamo pensato a un tanto, sacco di cose belle. Siamo, no, ci siamo anche un pochino, insomma, cullate nel quanto è bella la radio, ma non è questo che volevamo dirvi all'inizio di questa trasmissione, bensì continuare con il vecchio filone di Dante che abbiamo lasciato, scusate se tagliamo un pochino, ma stasera insomma bisogna farlo, con il filone di Dante che abbiamo lasciato in sospeso 2 settimane fa. Eh sì, giusto? Esatto. Bella quella puntata, brava. Bella, talmente bella che dobbiamo assolutamente finirla. Oddio, questo microfono fa dei rumoracci, sì. Scusate, spero che le vostre orecchie mi perdonino. E, cosa stavamo dicendo l'altra volta? Che esistono queste espressioni idiomatiche dantesche, no? Di origine dantesca, appunto, quindi che provengano soprattutto dalla Divina Commedia e qualcun'altra dalla Vita Nuova, ma sono entrate tutte quante di proprio preponderanza e prepotenza all'interno della nostra lingua. Abbiamo parlato, per esempio, del far tremar le vene i polsi e di cos'altro? Stiamo facendo un attimo un riassuntino. E della fama, di non ragionare di loro, ma guarda e passa. E di tutte le varie, ci siamo, lectio, che queste espressioni hanno assunto nel linguaggio moderno. Ah, ma che cosa vuol dire lectio? Ha studiato lei, signorina Nenia? Io ho lexio molto l'argomento. Nella vita, ho lexio molto, sia facile che difficile, ho lexio molto. Insomma, sì, le posso credere. Io la faccio molto. Ovviamente, questa della Nenia è una lexio facile della mia domanda. Chiaramente. La risposta. Allora, molto semplicemente, si parla di semplificazioni errate di queste cazzo di espressioni idiomatiche. Scusate, ma abbiamo dei problemi con i microfoni, quindi se scopro chi è stato io lo metto in ginocchio sui ceci. Sì. Ho anche un pubblico... Attenzione. Perfetto. Vai. Tra un po' secondo me avremo anche un pubblico un po' sadomaso che inizierà ad ascoltarci. Sì, secondo con me tutte ci sarà queste qualche... parolacce già. Si minacce di violenza, qualche master, soprattutto gli slave ci ascolteranno. Sì. Bene. Ciao mamma, un saluto alla mamma che mi ascolta sempre dopo questa cosa. E, semplificazioni errate, ovvero una sorta di lectio facilior. Definiamo un attimo dal punto di vista soprattutto filologico e linguistico che cosa cacchio è questa lectio facilior. Molto semplicemente è una lezione facilitata, ovvero è un principio della filologia indipendente dai criteri di valutazione ed è un errore, diciamo, proveniente dal linguaggio medievale trasmesso nel moderno, ancora oggi in uso, soprattutto in alcuni linguaggi settoriali, ma in questo caso no, perché queste espressioni idiomatiche dantesche non sono. Madonna, abbiamo iniziato proprio certo. A 3000. Sì, sì, ti sento, brava. Queste espressioni brava. Idiomatiche dantesche non sono propriamente settoriali e sono delle lezioni facilitate, trasmesse generalmente da un errore, da una cattiva interpretazione. Un esempio, diciamo, tra i più noti è quello delle lectio facilior trasmesse attraverso i manoscritti degli ammanuensi, dei cluniacensi, di tutti questi poveri uomini, probabilmente di fede, ma molto spesso di spinta e di quattrinaggio, perché generalmente avevano un fratello grande stronzo che era andato a fare il cavaliere e loro poretti gli toccavano i voti. E quindi questi poretti, già così ormai alienati nel mondo della scrittura su questi maxi libroni di carta igienica Foxy, scrivevano queste lezioni, quindi trascrivevano le lezioni, trascrivevano passaggi di qualsiasi tipo, dal ricettario dell'erbario fino alla Bibbia, perché così è, e spesso e volentieri trasmettevano errori, non tanto di trascrizione quanto di cattiva interpretazione di un fonema che secondo loro doveva avere una corrispondenza grafica particolare. Yes. E così non è. Oltre alla lectio facilior... Anche il proprio di scelta, magari, visto? Ci si sì. Accomoda un pochino anche sul significato più facile da interpretare a volte. Esatto, esatto. Come il polso polsi. Esatto. È successo quello, fondamentalmente. E appunto, sì, questa è proprio la trasmissione all'interno del linguaggio quotidiano, moderno, contemporaneo che noi utilizziamo, ma ce ne sono tante effettivamente di queste lezioni. Potremmo fare una bellissima puntata su queste cose, che in realtà sembrano delle grandissime pesate, ma non lo sono. Io mi ricordo quando ho fatto la tesi, ho fatto una tesi di filologia romanza, e ho dovuto in realtà cercare tutti quegli errori critici, tra cui anche le lezioni, che servono per ricostruire una versione perlomeno esatta, quindi apocrifa, non dell'autore ma comunque esatta, si spera, attraverso la collazione, quindi il mettere insieme gli errori, cercare di interpretarli e provare a dare una lezione, appunto una lezione esatta, corretta. E mi sono divertita molto perché questi poretti ne combinavano di ogni. E insomma, il presupposto è che i testi che ci sono giunti oggi attraverso la tradizione manoscritta, appunto, siano pieni di sostituzioni effettuate dai copisti, che sostituivano appunto le espressioni difficili, dette inusuali, con quelle più correnti e comuni. Ed è un pochettino lo strafalcione che tutt'oggi noi commettiamo, direi. Abbastanza. Ma io invece ho trovato un... Ah, che bello! Il mio libricino dei modi di dire. Oggi mi attengo rigorosamente al libro e a internet per appunto, parlarvi no? dei modi di dire. E ne ho scelto uno carino, ora ci stava. De gustibus non est disputandum. Ma perché l'ho scelto? Ah, a parte il significato è sui gusti non si discute. Però l'ho scelto in realtà perché... Ti leggo qui dal mio librino che è Perché si dice origine e significato dei modi di dire e dei detti più famosi, scritto per il Club degli Editori dal signor... Ragazzi, Club degli Editori. Salvatore Di Rosa. No. E vi leggo cosa dice di questo detto. Comunemente si crede che in questa frase provenga dai classici latini. Qualcuno in passato l'attribuiva addirittura a Cicerone. La grossolanità della frase non ha niente a che vedere con la finezza d'espressione dei nostri classici, e nessuno mai a quell'epoca si sarebbe sognato di aggiungere quell'est così pleonastico, limitandosi semmai a dire tipo «de gustibus non disputandum». La massima quindi deve senz'altro far parte di quel linguaggio aulico tanto caro ai dotti medievali, che poi è rimasto in vigore nel linguaggio giuridico e appartiene a quel bagaglio di modi di dire che vanno dal latino maccheronico, tipo, poi vabbè, fa diversi esempi come gratatio capitis, facci ricordare cos'ellas. Wow, questo è bellissimo. Gratatio capitis, sì, il grattamento di testa fa ricordare le cose spicciole, mm-hmm, e così via, insomma, fino a dei consigli, tra l'altro. Minimis non curat praetor. Il pretore non tiene conto delle cose molto piccole. Vabbè, era così una cosa divertente per... Dobbiamo assolutamente fare una puntata su queste cose in maniera da poi, insomma, diventare tutti più dotti su questi finti modi di, sì, dire, snocciolandoli in bus, sì, dal bar da Franco. Fantastici. No, ma guarda com'è colta questa signora. Ti ha dato della signora? Ecco. Ma come? E dopo una sorpresa per la radio. Per noi, sì, per la radio, per tutti. Per tutti quanti. Quindi, che so. Però intanto, se vuoi ascoltare qualcosa. Io direi che, visto che si sta parlando di Dante, chi meglio di uno degli attori più famosi, disquisisco sul bravi o meno, anche qua. Chiaro. Bravissimo, certamente. Della storia del cinema italiano, chi sarà che ha interpretato appunto la Divina Commedia? Non è Benigni. No. Per favore. No. No, Benigni è stato bravo dal 76 solo al 78. Per le cose divertenti. Esatto. Questa è forse una lezione molto, molto, molto... E basta, una lezione. Solo lezione. Parte. Vai. La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta... Gassman legge gli ingredienti dei frollini. Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool. Gassman legge, un'iniziativa culturale. Bellissimo, un capolavoro. Abbiamo altre perle questa sera. Mi sentite? Sì. Sì. Quello spinotto non mi piace per niente. Neanche a me, anche perché non riesco a leggere la scaletta, sono tipo Quasimodo. Allora, un saluto a Cocciante, un saluto a Quasimodo, un saluto al musical. Sto proprio leggendo quello, guarda. Davvero, mi mancano le ultime 10 pagine. Davvero? Su, finiamo che devo finire il mio Che Hugo. Devo finire il mio libro, il mio Hugo. Allora, Cosa ci vuoi dire? Perché ancora sì, okay. Io direi concludiamo un po' questa postilla che si è aperta, cioè, ma pensate un po' che si è aperta all'interno di un discorso su Dante Alighieri. Mm-hmm. Siamo bravissime. E ve l'abbiamo mandato avanti per 2 settimane, manco perché Gassman. Non l'abbiamo saltata. Vabbè, d'altronde si è sempre detto che gli studenti migliori sono quelli che ogni tanto con la condotta cilesina. Ma chi c'è lì fuori dalla regia che sta telefonando a volumi altissimi? A squarciagola. Allora, quindi questa variante di cui si parlava in realtà anche 2 settimane fa, che è far tremare le vene ai polsi o dei polsi, è appunto una lectio facilior. La lezione può essere ritenuta forse corrotta, detta anche una corruttela, voce corrotta o corruttela, e richiede il ricorso a un'operazione particolare che si chiama emendatio, cioè la correzione dell'errore. Quando nessun tentativo di emendatio appare convincente, quindi cerchiamo di risalire alla forma originale di questa espressione, ma nessuna delle formule trovate ci sembra convincente, siamo di fronte a un locus desperatus. Bellissimo. Bellissimo, anche questo potrebbe essere nel perché si dice. Si parla quindi di lex facilior e soprattutto di lex difficilior, quindi questi due termini ritornano. E quando più codici differiscono nel modo di rendere una stessa frase, quindi non so, abbiamo 7 manoscritti della Divina Commedia, in tutti questi troviamo far tremare le vene dei polsi, possiamo notare che le lectiones sono banalizzate, quindi molto semplicemente un errore che si è perpetrato all'interno di questi manoscritti. E mentre a volte una certa lezione meno intuitiva, che è stata verosimilmente prodotta per una volontà di fedeltà dal modello, perché cosa succedeva un tempo? Si aveva un modello già trascritto a mano, ovviamente una volta non c'era la stampa, no? Quindi avevamo questo modello che veniva poi riportato e trascritto da tutti i da diversi amanuensi che potevano appartenere a diverse scuole, a diversi monasteri, a diverse biblioteche. Bene, si parla quindi di una lezione meno intuitiva quando è stata verosimilmente riprodotta per fedeltà all'antigrafo, quindi a questo modello, anche senza comprenderne bene il senso. Quindi questi amanuensi copiavano facendo la faccia tipo boh. E quindi, diciamo, creavano una sorta di lectio facilior su cui però pesava il sospetto di un intervento, diciamo, un'interpolazione maldestra del copista, anzi non del copista in sé, ma di chi dettava, perché questi copisti spesso non erano soli per un certo periodo, o comunque in casi, diciamo, di gruppi di copisti piuttosto numerosi, c'era sempre qualche dettatore, qualcuno che dettava. E quindi questa persona, messa in difficoltà da una certa parola di cui gli sfuggiva il senso, ma voleva redigere un testo che fosse perlomeno intelligibile, commetteva questo errore, quindi una sorta di lectio facilior. Bello questo viaggio, mi sono immaginata il nome della rosa, sì, tutto. Il nostro caro Azzo. Azzo. E quindi si sospetta che un'espressione un po' ricercata possa essere sembrata addirittura contraria agli usi linguistici dell'epoca e quindi veniva addirittura corretta. Pensate un po', ne abbiamo da dire migliaia. Capito. Però, visto che io farei sentire una canzoncina. Sì, sì, va bene, vada per la canzoncina. O un'altra lettura. Un'altra lettura? Rai, sì, sì. Radio Televisione Italiana presenta... Gassman legge l'etichetta di un capo delicato. Sita. 30%. Cotone 40%. Acrilico 30%. Lavare a 40 gradi. Non strizzare. Non stirare. Capo delicato. Fare asciugare lontano da fonti di calore. Made in Corea. Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta. Un'altra lettura di Gassman, carina anche questa. Bellezza, non avvicinare a fonti di calore. Però abbiamo anche un altro intervento carino, dai, visto che si parla di Gassman, ne abbiamo un altro molto... Lo vuoi subito? Lo voglio subito, lo dedico alla nenia questo, perché sì. So che apprezza queste cose. io devo confessare una cosa. Io ho conosciuto Vittorio vocalmente dal disco Dal Quinto Canto dell'Inferno. Dal Quinto Canto dell'Inferno. E beh, no, è l'inferno che mi emoziona, sì. Non è, sono le fiamme. E mi ricordo i suoi... Adesso non so in voce, insomma, la faccio, che faccio? Vai, vai, Gigi! Allora, le caratteristiche di Vittorio sono anche un po' l'occhio, se mi può far vedere, penso che sia, un po', vediamo un po', l'occhio che non so se... Non so a che cosa copre quell'occhio lì che... Ma qualcosa copre sicuro. E quindi era... Era, cominciava, io mi ricordo proprio il fruscio del disco, perché l'avevo consumato proprio, che faceva... Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, e men loco cinghia e tante più dolor, tanto, che pugni a guaio. Quella O è quasi nulla, è guaio. Avvino orribilmente in ringhia. Disanima le colpi nell'entrata, giudica e manda. Secondo e avvinghia. E qui c'è un dico strepitoso, perché fa così. Dico. basta, adesso è... Dico, bello, bello, dico. Bello, grazie per questa dedica. Questa era molto, notevole, molto sentita. Sì, notevolissima, bella, bella. Molto bella. Sentita, speriamo anche le nostre voci con questi spinotti, con questi... No, ma forse ora va tutto bene. Bene. Ma quanti altri modi bene. Di dire conosciamo noi di Dante? Noi, io e te, tu ed io. Tantissimi, guarda. Cara la mia amica Nenia. Quando uno ti dice, per dire, stai fresco, che significa, che poi si vedi, mette male. Prendi la ciccia, finisce male. E questo significato proviene dalla parte più profonda dell'inferno, il lago di Cocito, anzi di Cocito. La peggiore zona dell'inferno. Lì i peccatori stanno freschi, dice, no? nel 33° canto dell'inferno. Perché stanno immersi del tutto, o quasi, nel ghiaccio. Capito. Eh sì. E poi da lì si comincia a utilizzare. Esatto. Del star freschi. Questo io non lo... Tu lo conosci, l'altro termine che abbiamo... L'ho sempre letto, ma non l'ho mai sentito. Infatti è un po' tecnico, dice. Inurbarsi. Un vocabolo tecnico per urbanisti, storici, architetti, che passa del tutto inosservato. Infatti ecco perché non si era forse mai sentito più di tanto. E invece fa parte di quella schiera infinita di neologismi danteschi creati con il prefisso in. Mamma mia, mi ricordo ancora la mia prof che a sberle ci pigliava con questi. E poi tutto quello che insomma Dante un po' gli passava per la testa, come indiarsi, diventare Dio, inmillarsi, moltiplicarsi per migliaia, ingemmarsi, ingemmarsi si usa, che significa adornarsi luminosamente o lussuosamente, imparadisare, innalzare al paradiso, bellissimo. Imparadisare, innalzare al paradiso, non vale invece questo per internarsi, che non c'entra nulla con l'ingresso nei manicomi, ma con il diventare una terra, quindi una forma di trinità. Galeotto fu, e inserire elemento piacere, no? Galeotto fu la birra e le patatine, Fidel. Che si è un po' persa ora la percezione del galeotto, che in origine era un nome proprio. Come... che cosa c'era? Aspetta, adesso ve lo devo dire. Si dice di una persona arrogante, un M... con la non mi ricordo. M di mamma. La M di mamma. Comunque anche questo... deriva da un nome di... Deriva dal nome di un personaggio dell'Orlando Furioso. Che non mi ricordo, adesso mi verrà in mente. Un gradasso. Non è con la M di mamma. Gradasso. Con la G di mamma. il gradasso. Quindi questo è un sistema che insomma si ripropone. Ma Galeotto deriva da Galehaut o Galehaut, personaggio che appunto nelle leggende di Lancillotto di Beda, della Tavola Rotonda, favorì l'amore tra Lancillotto e Ginevra. Galeotto fu il libro, invece, che ovviamente è il quinto canto dell'inferno, significa che il libro ebbe la stessa funzione che ebbe Galeotto, cioè che fece unire i due amanti, ovviamente Paolo e Francesca. E poi, ma ne abbiamo ancora, abbiamo il gran rifiuto, il bel paese che si usa tutt'oggi, senza infamia, che fatica, senza infamia e senza lode, non ragioniamo di loro, fa tremare le vene e i polsi, l'abbiamo già detto, non mi tange, che non è il noli me tangere cristiano che tanto si usa, e cosa fatta capo a. Io sceglierei il bel paese, sì, perché tanto è una delle espressioni più idiomatiche, no? Che è l'Italia, il bel paese, no? Dove si suona, dove là dove il si suona, cioè dove si dice sempre sì. Questo è il 33° canto dell'inferno. Un sacco sono prese da questo punto, diciamo, della commedia, che è un passaggio importante, perché Dante sta maledicendo Pisa. E quindi il bel paese, ma no, Pisa merda no. Pisa merda. Con il vituperio delle genti per l'abominevole sorte riservata al povero conte Ugolino. Quindi invoca le isole di Capraia, la Gorgona, chiedendo di spostarsi verso la costa, chiudere la foce dell'Arno e annegare la città. Carino, eh? Carino. Questi pisani davvero. Poi abbiamo il famoso, che quante volte ce lo saremmo sentite dire, tipo ai colloqui scolastici, insomma. Senza infamia e senza lode, con questa voce proprio. Bravo ma non bravissimo, bene ma non benissimo, male, non male ma nemmeno benissimo, insomma, ecco. Senza infamia e senza lodo, che rima con odo e modo, siamo nel terzo canto dell'inferno. Oggi l'espressione ha un valore abbastanza neutro, ma per Dante invece era una cosa gravissima, un peccato di mediocrità. E ovviamente descriveva in questo modo gli ignavi, quindi coloro che avevano vissuto la propria vita senza commettere gravi peccati, ma anche senza essersi mai schierati dalla parte della fede o comunque di una decisione, diciamo, di polso importante. E li disprezza talmente tanto che non vuole nemmeno prenderli in considerazione. E cosa succede? Fa dire a Virgilio: non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, di cui avevamo parlato con il fa tremare le vene e i polsi nella prima puntata. E il non mi tangere, che non deriva, come dicevamo, dal noli me tangere, no? Non mi tange si dice spesso come non mi importa, non mi interessa. È una frase anche un po' scherzosa. Ma in origine non era così. Siamo nel secondo canto dell'inferno e questa è una frase che proviene dalla viva voce, più o meno, di Beatrice. Io son fatta da Dio, sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange. Beatrice è appena scesa dal paradiso, si trova lì vicina a Dio, ed è nel limbo, per ordinare a Virgilio di andare a salvare Dante. Il poeta latino, incuriosito dalla visita insolita, ne approfitta per farle qualche domanda. Come fa, ad esempio, una come lei a venire fin quasi dall'inferno e non soffrirne? Perché lei è resa in modo tale da Dio e non ne sente la miseria della condizione del peccatore, ovviamente. Quindi il male non la tocca. O meglio, non la tange, appunto, non li metangere, che significava non mi toccare. E un'altra dicitura che non conosco, che è cosa fatta capo a. Questa non mi torna. Non l'hai mai sentita? Forse sì, ma non mi torna un granché. Sì, io l'ho messa perché mi piaceva. È bellina però. E infatti siamo anche in uno dei, forse, dei canti dell'inferno un pochino più sconosciuti, il 27°, e lo pronuncia un povero dannato, tale Mosca dei Lamberti, che gira per l'inferno, poretto, con le mani tagliate e il sangue che gli zampilla sulla faccia, no? E l'espressione proverbiale c'entra abbastanza con questa scena, perché secondo la leggenda dell'epoca di Dante, questa frase pronunciata da Mosca De Lamberti introduceva la famiglia degli Amidei, che avevano deciso di vendicarsi di Buondelmonte con un affronto di tipo matrimoniale. Per un affronto, scusatemi, di tipo matrimoniale. Lo scontro fu molto grave, perché portò, secondo la leggenda, alla divisione della città, ovviamente, tra Guelfi e Ghibellini. E Mosca, causa di questa divisione, porterà per l'eternità i segni della violenza sulle sue mani. Cioè, non ce le ha nemmeno più. Ecco, io direi che abbiamo fatto una bella carrellata. Beh, sì. Io invece volevo iniziare questa rubrica che torniamo nasce nella... oggi e finisce giovedì prossimo probabilmente, ma vorrei dedicare un detto, un modo di dire a tutte le trasmissioni della radiolina Wombat. E inizio dalla primissima. Vai, sentiamo un po'. Dalla primissima trasmissione che è stata mandata in onda in diretta. Ovvero Slick Chick, giusto? Correggetemi se sbaglio. Sì, mi sembra di sì. In diretta da quasi 2 anni ormai. E allora vorrei dedicare a Slick Chick, alla conduttrice, a tutti gli ospiti che ha avuto via via nel corso dell'anno e mezzo ormai, il modo di dire che l'uovo di Colombo. Perché? Oho. Perché si dice di una cosa facile, alla quale però nessuno pensa. E lei è stata la prima a iniziare, anche con grande nonchalance, devo dire, se ben ricordo. Cristoforo Colombo, trovandosi un giorno a pranzo con alcuni gentiluomini spagnoli, si sentì dire che, dopo tutto, la scoperta di nuove terre al di là dell'Atlantico non era una grande impresa e che chiunque avrebbe potuto compierla. Colombo allora prese un uomo... Un uovo. Ha preso uno di questi per la testa. Sì, e invitò i commensali a farlo star ritto sulla punta. Non ci riuscì nessuno. Tutti dissero che era impossibile, ma il navigatore schiacciò un pochino il guscio e l'uovo stette in piedi, dando in questo modo la sua fiera risposta. Se lo merita tutto. Sì, sì, mitico Colombo. Tutto. Senza Colombo non avremmo la cheesecake. La nostra slick cheesecake. Poi vabbè, ne avrei anche un'altra a questo punto. Io lo vorrei sentire, lo vorrei, con un aereo sola. Lo vorrei, se me la fai molto meglio. Questa la dedico per assonanza a fuoco alle polveri. Acqua alle corde. E dopo Pisa, Genova. Sì, chiaro. Acqua alle corde. Nel 1586, per ordine di Papa Sisto V, l'architetto Domenico Fontana doveva innalzare sull'apposito piedistallo l'obelisco che oggi si ammira al centro di Piazza San Pietro a Roma. Non so se avete presente che pisellone è quello. Era un'operazione che richiedeva la massima concentrazione e anche il massimo silenzio. Quindi, per evitare confusione, il Papa aveva fatto emanare un editto che vietava a chiunque non fosse addetto ai lavori di entrare nel recinto semplicemente di parlare. Simpatico Sisto. Perché bastava già il parapiglia creato dai 150 cavalli e dagli 800 uomini impiegati nei lavori. I trasgressori agli ordini del Papa sarebbero stati impiccati seduta stante, tanto che per l'occasione all'interno del recinto il Bargello e i suoi sbirri avevano eretto il patibolo, così è scritto dal nostro signor amico Salvatore di Rosa. Mamma mia. Ma che succede? Un certo Bresca di Sanremo, capitale di un bastimento genovese, si accorse a un dato punto che le corde reggevano il monolito ma tendevano ad allungarsi a causa dell'eccessivo peso e quindi avrebbe finito con il rompersi provocando la distruzione dell'obelisco. Quindi, incurante dell'editto papale, si mise a gridare «Acqua alle corde!». Per l'esattezza, come narra Daniele Morchio, e qui lo dico, perdonatemi per gli errori ovvi che ci saranno nella mia pronuncia, «Aigà, dai delai gai corde!». Da buon marinaio sapeva che la canapa bagnata si sarebbe ristretta e accorciata. Insomma, ve la faccio breve, lui non venne impiccato ovviamente, ma venne mantenuto a vita dal Papa. E questo insomma era una dedica... Il sogno, capito? Di ogni genovese dell'epoca. Direi. Insomma, e quindi alle prime due trasmissioni abbiamo dato il regalino dell'anno e mezzo di ne cercheremo altri. Sì, ma sono già tutti pronti. E piano piano in tutte le nostre puntatine ve li diremo. Anzi, dopo ne devo dire un altro per noi. Ma prima vi facciamo sentire un po' di musica. Almeno così spezziamo un po'. Oh, Questi erano i The Legendary Pink Dots, uno dei miei gruppi preferiti. Brava. E, che facciamo? Andiamo avanti con un altro paio di detti o vogliamo ricordare che cosa ci sarà questo fine settimana? Un palinsesto? Ma guarda, io devo... Assolutamente. Devo assolutamente fare altre due dediche. Ma è la dai, prossima... Dai, sì, le facciamo. Sì. La prossima è tutta per Coccoli. Al silicio e abbiamo il eppur si muove. Da dove arriva? È una frase celebre della lingua italiana e questo è chiaro. Abbiamo due varianti: eppur si muove e eppur si muove. La frase sarebbe stata pronunciata da Galileo Galilei al tribunale dell'Inquisizione al termine della sua abiura dell'eliocentrismo. Capito? E lui disse, eppur si muove. Esatto. In realtà la frase è stata soltanto attribuita a Galileo da Giuseppe Baretti, che aveva ricostruito tutta la vicenda per il pubblico inglese e viene pubblicata in un'antologia del 1757. E quindi anche una piccola dedica bellino a Coccoli al silicio, che va in diretta il lunedì alle 21. Ricordiamo invece Fuoco alle polveri... alle 16.30 sempre del lunedì in diretta, e Slick Chick, che abbiamo salutato e nominato poco fa, invece in diretta alle 21 ma di mercoledì. Chiaramente poi andate nel palinsesto del sito e troverete anche gli orari le delle repliche. Varie repliche, o se non volete ascoltarci in diretta, visto che ormai siamo una radio così ricca, ormai ma potete anche ascoltare i podcast se proprio ve li volete scaricare nel telefonino e andare a camminare con le cuffiette su in collina, che so. Che bello. Così. Poi che c'entra? Vogliamo dire anche cosa c'è questo fine settimana? Allora, sì. Tu cosa sai di bello? Io so che è sabato sera al Next Emerson, in via di Bellagio, ci sarà una festa molto particolare, di cui non ricordo il titolo ora, ma è una festa a tema laboratorio scientifico. Con diversi DJ set, dove ci sarà post-punk, dark wave, dark e tante altre cose, dove è consigliato il costume. Non è carnevale, ma è una festa, diciamo, un po' a tema, una cosa un po' particolare che... Dai, ci sta. Ci sta ogni tanto. E, poi in polveriera... Io in questo momento ho tabula rasa. C'è lo spettacolo teatrale. Ma c'è, sì, c'è sicuramente. Alle ore 20 e 30. Abbiamo provato a studiarceli, ma non riusciamo a ricordarceli a memoria. Abbiamo toppato. Esatto. La cosa più importante dal punto di vista politico però è esatto. Il corteo del sabato sì. Pomeriggio alle 15.30. Che parte dal ponte, ormai diventato il centro del mondo di Firenze, il ponte è quello vicino all'ambasciata americana, per intenderci, che chiaramente io non essendo fiorentina ancora non ho imparato i nomi dei lungarni e il nome dei ponti, ma prima o poi ci riuscirò. Ponte Vespucci, mi dicono dalla regia, ovvero da tu. Ecco, e quindi sì, infatti... Il corteo parte da lì per la situazione curda, per Afrin, per chi non le ha chiare le idee venga a schiarirsele un pochino lì. Saremo in diretta con Radio Wombat, faremo delle interviste, vedremo un po' come va la situazione, avremo modo anche di approfondire in diretta appunto con le interviste, contattando qualcuno che è sicuramente più informato di noi, insomma ci faremo dire qualcosina di più. Tutto in diretta, sì, seguiteci anche su Twitter perché gli aggiornamenti arriveranno sia sul sito, sulla pagina delle news che creeremo apposta una pagina per la diretta dal corteo e su Twitter, twitter.com/radiowombatfi. Che altro? Il sito chiaramente lo conoscete, se non avete ancora comprato una radiolina che trasmette in AM fatelo, così... Esatto. Bene, vedi? E niente, compratevi una radiolina, raccattatela da qualche parte o se avete l'autoradio che ha quel pulsantino che a un certo punto trasmette dei rumori orribili, quello è sicuramente il pulsante che vi manda da FM a AM. Sicuro? Sì. Anche russe, sì. E a un certo punto per la città troverete anche noi su 1-359. Quindi provate un po', magari se volete fare un po' di radioascolto ci mandate delle informazioni alla mail. Brava, mi ero dimenticata della nostra mail. E che dire? Sì, giusto, punto net, è vero. E basta, così ci dite se, che ne so, io sto alle cure, la mattina alle 10 si sente da addio. Ecco, e alle brutte, se non ci vediamo al corteo, non ci sentiamo per mail, ci vedremo magari alla serata al Next Emerson vestiti in costume. Quello è un po' un giro musicale di quelli un po' tosti, è un po' da malavisosi. Perché, sì, perché questa cazzata l'ho detta semplicemente per agganciarmi. No, no, per agganciarmi all'ultima replica, Simona, all'ultima dedica, infatti, all'ultima dedica della trasmissione, pezzo da 90, questa la dedichiamo a Otto Hertz e ai suoi ambienti musicali loschi. Si dice per indicare una personalità molto influente in tutti i settori con particolare riferimento alla malavita, e lui... In alcune cittadine, soprattutto della Sicilia, è ancora in voga in occasione delle feste dedicate al Santo Patrono concludere i festeggiamenti con fuochi d'artificio, al termine dei quali si fanno esplodere bombe più grosse delle altre, sparate con rudimentali mortai del diametro di 90 mm. La misura del calibro è passata a indicare una persona più importante delle altre, di cui si dice anche un pezzo grosso, un grosso calibro. Hai capito? C'è, è una bomba. Sì, chiaro. Certo, quello di Sardelli, questo. Sì, e i fumetti di Mafalda. Ecco, vedi, bellissimo. Va bene, qui vi lasciamo. Sedotti abbandonati con un po' di ritardo all'inizio, un po' di ritardo alla fine, ma possiamo, ce la facciamo a fare una promessa? Giovedì prossimo saremo puntuali? Ci proviamo. E allora, dopo uno dei tuoi gruppi preferiti, passiamo al mio. A uno dei miei preferiti, infatti, infatti, perfetto. Allora vi lasciamo, baci e abbracci e boh. Sotto una maschera o a un vestito banalmente nero, va bene uguale. Sì, dai, dai, in qualche modo si fa. Andate sul sito del Next Emerson e informatevi. Ciao! Ciao, ciao. Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious.